ringraziare prima del prossimo evento tutta la troupe 2 della Milano 1 di Rock FM. Che sono usciti, cioè è uscita la troupe 2 della Milano 1. La Milano 1 è malata. Sì. Ok. No, che... sono a Vienna. Sono a Vienna, no, sì. Dai, sono. Ah, la Milano 1 è a Vienna, sì. Quindi c'è la Milano 2. La troupe 2 sulla Milano 1, ok. Sì. Allora, e sono in mezzo a una piazza del centro di Milano dove c'è un gruppo che sta per suonare sotto la pioggia in mezzo al traffico e siamo in collegamento via SDN. Sotto la pioggia battente? Battente, letteralmente battente, proprio oggi c'è un tempaccio qui a Milano. E nulla, c'è un gruppo nuovissimo che sta per esibirsi. So che ci sono tantissimi fans davanti a loro. Cosa stai facendo? No. Uno cosa si immagina a casa? Dimmi. Cioè, non lo so. Cosa sta facendo? Io non riesco a immaginarmelo che sono qua, figurati a casa. Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Cosa sta facendo? Ma non saprei. Un topolino sembra. Sto cercando un giornale. Un giornale lì? Ah, vabbè. Di solito si va in edicola. Un giornale lì, per terra? Sdraiata per terra tipo passo del leopardo? Flick o flop. Va bene, allora, abbiamo perso qualche secondo perché il collegamento è molto difficile oggi visto la pioggia, ma ci siamo! Ubriaca, cosa gli... Ma dai! Ma lo yogurt, è venuto male lo yogurt, scusa. Ma dai! Ma posso, sai perché? Perché Garavelli, già tutto il giorno che ogni volta che mi piego mi infila le cose nei pantaloni. Ma va! Che cosa ti infila nei pantaloni, scusa? E la prima hard disk, adesso un hard disk. Un hard disk nei pantaloni! Un hard disk intero! Andiamo, siamo collegati! Ci siamo! Vai! Ecco sì, ecco, c'è la linea, c'è la linea. C'è la linea? Si sente? Eccola! Infatti senti che pioggia che c'è oggi. Siamo collegati, vai con la troupe 2 di Milano 1. Potete iniziare a suonare, grazie, siete in onda! Non mi sentono. Siete in onda! Qui Rock FM! Ecco, si è iniziato un flusso. Qui, cosa abbiamo preso? Non mi importa di cinese. Se è. Faccia paera. E allora, fo' bianchi. Fo' al dono. Fo' assassino, avete vinto il Milano, sti. Faccia paera. Se è. Tu mi avevi detto che c'erano gli Angra. Beh, scherzo, dai. Cioè, oh, gli Angra hanno imparato il milanese. No, vabbè, ma scherzo, non si può scherzare. Cioè, è un... sono il gruppo di mio cugino. Vabbè, ma... è il gruppo di mio cugino. Vabbè, dai, devo farlo passare una volta in radio. Il gruppo di mio cugino... Sì, ma dimmelo, lo sai che qua si può fare tutto, non ci sono problemi. No, poi dici, ma tu mi cugino mi dici la verità? È? Vabbè, il gruppo di mio cugino, dai, ti piace. A Milano... è bello, dai, vai, dai. Sì, è stato un passaggio così. No, perché ci è arrivato un fax, questo disco si chiama Pulenta con la U. Pulenta, sì. Cassola e tripa. Pulenta, cassola e tripa, ma, su dite, Rock FM. A me sembrava strano che gli Angra avessero fatto un disco con questo titolo, però. Vabbè, ma io cosa ti avevo detto che. Come si chiamava? Angra. Angra, ok. Ok. Ecco, cosa sono il direttore, o il direttore. Scusatemi, l'ho fatto, va bene, è un interesse. Sono Graziano, dimmi. Interesse, come sono Graziano? Sta già venuto a prenderla. Sono Gravelli. Sono Gravelli? Sono Gravelli. Ok. Claudia. Claudia. Chi è? Non Supergrasta, Supergrass. Supergrass, non Supergrass. Vabbè. Andiamo con la pubblicità. Il delirio continua. Diamo con la pubblicità. Ah, ci sono delle persone che in questo momento si stanno sintonizzando con la loro radio su Rock FM. È tutto vero. È vero, cioè questa trasmissione va avanti ormai da 4 anni, no, forse anche 5. Dobbiamo mettere ancora 4 dischi, riempire la pubblicità. Sì. Dai, per favore, vediamo. È così. Supergrasto. Li mettiamo dopo. I supergrasto dopo. Allora, abbiamo la pubblicità, i nostri sponsor coraggiosi, abbiamo Vame, poi Milano Metropoli 2 e Rock FM Speed Slow Fire. Rock FM Speed Slow Fire. Com'è? Slow Fire. Questa è la vostra città. E la radio che emette nella vostra città si chiama Rock FM. Ci siete sintonizzati, abbassate i finestrini anche se piove. No dai, teneteli su, alzate soltanto il volume. Basta questo e avanza. Sei preparata 7 giorni prima per un mortaccione. Ma che morta... quello di Doggy Dog. Vabbè. Non lo ricordo. È finita. La testa. Quella volta che ero stata qua pronta. No, non è vero. Ha aperto l'ascensore. Aspetta. Sono rientrato. Radio Verità. Dovete sapere per i nuovi ascoltatori che noi possiamo abbassare quando vogliamo la musica e far ascoltare quello che succede dietro i microfoni. Di solito Claudia dà uno show tutto suo particolare, sì, all'interno della nostra trasmissione. Voi ascoltate noi come ascoltiamo lei. Noi ci divertiamo per lei. Cosa faccio quando la prego? E allora, sono arrivati? Claudia, sono arrivati? Allora, invece io vorrei farvi sentire, cari ascoltatori, amici lontani, lontani e vicini. 48. Esatto. Un disco. No, vorrei farvi sentire un fuori onda. Fuori onda? Un fuori onda. Protagonisti di questo arrivando. Fuori... chi se ne frega, tanto noi abbiamo ancora 2 minuti. Dai, dai, dai, protagonisti di questo fuori onda. Protagonisti di questo fuori onda sono Cagno, il nostro tecnico. E Gaucho. No, davvero? Sì. Non attenzione. Questa qua è una sorpresa. Esatto. Sentiamo. Questa è una sorpresa perché neanche tu sapevi che ma stavo no, registrando. Non lo so, giuro. O forse sì, lo sapevi, ma sei caduto nella tua stessa trappola. Io? Sì. Sentiamo, dai. Ti ricordi? No. Che cazzo il compressore qua? Qua non c'entra niente il compressore. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Mi mandi una base, perché sennò non ho quella loro proporzione. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No, non è in controfase. Cioè... ah, sì, adesso si sente, però bisogna vedere con la musica, ma... ehi, allora! Otta! Ehi, sinistro, destro! Va bene, va bene! Otta, come va bene? Va! Sto schiando e... è arrivata! E osti, osti! Uè, osti! Osti, e allora? Allora va bene! Andiamo! Adesso è alto la voce, il livello. La voce. Andiamo, per cortesia, vogliamo... Distributore. Ci vuole un distributore di segnale perché ci sono troppe macchine. Mixer. Il mixer quello là che abbiamo tolto di là, no? Ah, distributore. Va bene, dai. Andiamo. Okay. Vabbè, era un fuori, cioè mi avete candycamerizzato. Ti abbiamo gabbato. A mia insaputa. Era l'inizio di una registrazione. Noi per iniziare una registrazione ci impieghiamo circa 2 ore. Dobbiamo mettere insieme lo studio. Abbiamo i Supergrass qui con noi. Supergrass insieme a noi. Tra poco l'intervista con loro. Mandiamo la sigla Rock Shock. Sigla Rock Shock, oggi non c'è il tempo di fare il riprima della pubblicità. Siamo molto in ritardo, ce ne scusiamo con i nostri sponsor. Salutiamo... ma le interviste sono interviste. Importanti. Salutiamo tutti i nostri ascoltatori. Dopo il Rock Shock di questa settimana ci saranno i Supergrass. Mi raccomando, non mancate. Ciao a tutti. Ciao Gran. Ciao Gaucho. Oh, mi raccomando, domani peggio di oggi, perché esatto. Oggi è stata una puntata. È stato bello essere qui con te anche oggi. Ma secondo te ci ascolta ancora qualcuno? No. O ci compatiscono? No, forse per metal, me... come si chiama? Metal.